Welcome, Federico. The system is ready to jack in. Bentrovati a Medium, il podcast su Netrunner. Io non sono Federico Latini, ma sono Dennis. Come mai qui non c'è a parlarvi Federico Latini? Semplicemente perché gli ho chiesto gentilmente di lasciarmi un po' di spazio, come hanno fatto anche Ricci e Vassalli, che hanno realizzato una delle ultime puntate, peraltro molto, molto divertente e molto bella. E Federico è stato disponibile, me lo ha lasciato, e ho deciso quindi di realizzare un nuovo format chiamato Hostage, in cui in ogni puntata prenderò in ostaggio un protagonista del meta attuale, dei giocatori di Netrunner in Italia, e lo interrogerò. Gli porrò alcune domande per conoscerlo meglio, farlo conoscere meglio a voi. E oggi, come primo ospite, non potevo che avere Federico Latini. Quanto è meta tutto ciò! Esatto! Quindi, paradossalmente, creiamo qualcosa di nuovo, ma parlare sarai sempre tu per la maggior parte del tempo oggi, quindi... Vediamo cosa tiro fuori, sono molto emozionato come ospite. Beh, sono più emozionato io come conduttore di questo nuovo hostage. No, allora, la prima cosa che vorrei chiederti, passando subito al dunque, è riguardo a Medium, appunto. Ovvero questa piattaforma, certo, che adesso stiamo usando anche noi semplici ascoltatori fino a pochi giorni fa, poche settimane fa, nasce in un certo momento come idea. Quando nasce l'idea di Medium? Perché nasce? Allora, Medium nasce contemporaneamente alla mia scoperta di Netrunner. Per quale motivo? Perché io sono un grande ascoltatore di podcast. Non amo scrivere, però mi sento di voler dire qualcosa al mondo e quindi pubblicare contenuti, e quindi tutto quello che faccio, che mi appassiona e mi entusiasma, provo di comunicarlo come riesco. La cosa che mi riesce un po' meglio, e figuriamoci quindi le altre, è parlare, dai, via, parlare tramite il podcast. Anche vuoi giocare, perché dai. Ma va là, vuoi perché da una parte li ascolto molto, e quindi nel tempo ho anche un po' assorbito il format del podcast, quindi imito in un certo senso quello che vedo che funziona in America, e d'altra parte perché, insomma, se devo scegliere fra mettermi lì e scrivere un articolo e correggerlo, riguardarlo, piuttosto preferisco aprire la bocca, spegnere il cervello e quello che esce esce. Quindi esistono anche i Pippo Baudo e Gigi Marzullo del podcast a cui tu ti sei ispirato per essere assolutamente. Il nostro, che ne so, Corrado, non so chi vuoi, il Corrado del podcast. Social, ragazzi, cioè, mai hai detto niente. Corrado, massimo rispetto. Beh, Ricci e Vassalli sono Bonolis e Laurenti del sì, Netrunner, tutta la vita. No? Sì, sì, assolutamente, perfetto. Tutta la vita. Sì, io sono più formale, ci credo di più, quindi sono più Corrado. Mi piace questa cosa. Quindi Medium poi... nasce prima di tutto per te e poi ovviamente per noi che lo ascoltiamo. E nasce, sì, proprio anni fa, quindi. Ma che anni fa? Insomma, è nato a giugno-luglio del 2013. Ah, e niente, mi ero preposto, diciamo, di fare una puntata più o meno al mese, più o meno ci sono riuscito, e con dei momenti in cui ne ho pubblicate di più, altri in cui magari sono stato un po' più latitante. Chiaramente perché, insomma, la vita si mette sempre di mezzo a gamba tesa e quindi non sempre ho il tempo di far le cose. Però fortunatamente il podcast, anche i podcast, diciamo, in solitario, quelli un po' meno interessanti dove ci sono solo io che parlo, la cosa bella è che te li fai un po' dove ti pare. Io in quanto agente di commercio giro spesso in macchina, e quindi molti dei podcast sono stati registrati in pausa pranzo, in macchina. È una cosa che hai ripetuto spesso, infatti, in alcuni podcast, questa me la ricordavo. Sì, sì. E poi dopo sono venute naturalmente le interviste, e le collaborazioni e quant'altro, finché finalmente non sono riuscito a far arrivare nella testa, diciamo, di voi giocatori di Netrunner, che Medium non è assolutamente un format chiuso, anzi è una realtà che per me, cioè, non è che lo sento come il mio figlioletto che lo devo gestire solamente io, anzi, se come ha fatto Luca e Noah, come hanno fatto loro, se vogliono prendere, farsi la loro puntatona e pubblicarla sotto, come dire, il marchio Medium, io sono solo che contento, anzi ringrazio anche te per prendere questa iniziativa. Io faccio l'ultimo, poi dopo non lo dico più, anche come dire, annuncio a Federico Spada, che mi piaceva tantissimo la sua rubrica dello zio Wotan, ma non, ma è un perfezionista e quindi lui, finché non ce l'ha pronto tutto quanto come vuole lui, probabilmente non uscirà con questa cosa. Io dico, ripeto sempre a me stesso e agli altri che fatto è meglio di perfetto, quindi insomma io se anche non viene fuori subito perfetto e si perfeziona nel tempo, vai, zio Wotan, ti aspettiamo. Beh, infatti tu, al di là del merito di aver fatto dei podcast molto interessanti, hai quello di averci spinto, perché fino a un mesetto fa nessuno avrebbe mai pensato, magari, di, non dico di rubarti il posto, ma di collaborare, ecco. Non tanto perché tu sei una persona chiusa, anzi ti ho conosciuto, quindi so che non sei così, però era quasi inarrivabile Medium da un punto di vista dell'ascoltatore, secondo me, almeno io la vivevo così. Poi Ricci e Vassalli invece hanno dimostrato che c'è sempre qualcosa di diverso da fare. Noi non vogliamo assolutamente che però il tuo Medium si prenda delle pause, quindi no, ma io mi diverto a farlo, quindi, insomma non conto di smettere. Riguardo invece al discorso più tecnico, tu hai detto che c'è chi è un perfezionista, quindi decide di avere tutto sotto controllo prima di iniziare a registrare una puntata. Tu invece prima hai detto che preferisci svuotare il cervello e iniziare a parlare, quindi la tua preparazione per Medium è proprio un relax. Sì, allora, se io mi sono detto questo, se prima di partire a fare una puntata mi devo mettere lì, fare le ricerche oppure decidere che cosa fare, che cosa non fare, non lo faccio più, nel senso che quindi mi metto lì e alla fine fondamentalmente quello che faccio è gli stessi discorsi che faccio con il Baralai al Circolo Evolution. Cerco di dargli una struttura un po' più concreta, un po' più strutturato, e provo di seguire un filo generico, ecco. Sicuramente il filo conduttore me lo do, cerco di darmelo, poi dopo ci sono sempre i voli pindarici. Sì, beh, il discorso poi va per conto proprio. Allora, le prime due domande le abbiamo sviscerate riguardo a Medium, adesso passiamo al gioco più concreto, proprio a Netrunner. So che è banalissima, ma come comincia questa passione di Netrunner per Federico Latini? Tutta colpa di Francesco Baralai, Circolo Evolution. Io chiaramente, da appassionatissimo di giochi da tavolo, avevo seguito con entusiasmo la nascita di Netrunner, soprattutto con i resoconti super entusiasti del meta americano, e sempre essendo appassionato di giochi da tavolo, Board Game Geek lo ha tenuto primo nella hotness, quindi nelle pagine più visitate, per mesi e mesi, cioè ormai la gente nemmeno ci guardava più chi era il primo, perché lo davano per scontato che fosse Netrunner, e è rimasto su veramente un tot. Io ero molto molto preso bene, diciamo, da questo entusiasmo, ma non sono un grande amante del mettermi lì a studiare le regole, anche perché, sapendo che è un gioco che devi giocare con qualcun altro che anche lui ha il gioco, quindi un approccio un po' stile Magic, non ho come dire, non mi sono mai messo lì a dire ok, adesso coinvolgo qualcun altro, ci faccio giocare anche lui, mi compro il set base e quant'altro. Quando al circolo poi ho saputo che Francesco era super appassionato di giochi di carte e si era preso benissimo di Netrunner, cioè, il passo è stato cioè, brevissimo. Comprato subito i core set, messo al pari con le 2 o 3 espansioni che erano già uscite, e poi ho seguito sempre l'acquisto delle espansioni man mano che uscivano. È un discorso che abbiamo fatto varie volte, ma dopo ti chiederò perché hai detto i corset e non il corset. Adesso vorrei fare una pausa perché nell'ultimo podcast di Ricci e Vassalli c'è stata quella balera degli Anar che a me è piaciuta tantissimo, quel Wildside. Hanno avuto secondo me un'idea geniale, perché è vero che Netrunner ha il Medium più che altro ha la sua colonna sonora, però l'inserire uno stacco è stato fantastico come idea. E l'altro giorno, a dire la verità, più di un mese fa, giocando a Netrunner, mi è venuta in mente una carta che potrebbe essere collegata a una canzone che conosco, ed è Punitive Counter-Strike. La conosci benissimo perché tu di carte sai molto più di me, quindi io ho giocato anche tornei senza conoscere carte, invece lasciamo perdere. No, Punitive Counter-Strike noi la viviamo più che altro dal punto di vista della corp, no? Quando usarla, quando serve, quando non serve. Uno dei maghi di questa carta è proprio Baralai, che hai citato prima, sa perfettamente come usarla al meglio. Però dal punto di vista del runner è proprio traumatico subire il Punitive, non tanto, cioè non soltanto per il giocatore, ma proprio per la figura del runner. Quindi mi sono immaginato questo runner con questa pistola puntata alla tempia da dietro. E ovviamente lì la situazione era traumatica, disastrosa. E mi è venuta in mente una canzone che si chiama proprio Shot in the Back of Dead di Moby, che riassume un po' questo stato d'animo, e quindi adesso la vorrei ascoltare. Questo era Shot in the Back of Dead di Moby, del 2009. Peraltro la canzone, se vi interessa il video, andatelo a recuperare perché è diretto da David Lynch, quindi non uno a caso. Mi capisco i fichi. Eh no, insomma, Cioè, io dico David Lynch, ma in realtà non ho praticamente mai visto niente di David Lynch, ma so che è una persona importante, ecco. No, torniamo a noi. Recuperiamo il discorso dei corset. Sì. Perché uno dei motivi per cui tu sei famoso a livello di meta italiano, tra gli altri, è il torneo del Play di qualche Sì, mese fa. ho fatto Perché, una butade. no, hai fatto una gran cosa. Non tanto per dimostrarlo a te stesso, perché io, insomma, penso che tu sappia quanto sei forte, quanto sai giocare, ma per dimostrare a tutti che, come ripetiamo mille volte, Netrunner lo fa il giocatore, non il mazzo. Io personalmente non sono d'accordo al 100%, ma è un mio parere. Però tu hai dimostrato che cosa al play? Ma niente, ho provato a cercare di andare bene facendo un confronto fra io che giocavo con solamente due corset, quindi con mazzi creati solamente con due corset, contro il resto del mondo che giustamente si è preparato con tutte le carte che c'erano fino a quel momento. Adesso non mi ricordo fino a che punto eravamo arrivati del ciclo, ma sì, allora sicuramente. Non è che sono arrivato primo, insomma, Beh, ho fatto sesto, sei che arrivato comunque sesto su 30 più o meno, e è una buona quindi. posizione, ma non è niente di che. Sicuramente mi ha stupito, ma sono stato stupito piuttosto in fase di deck building, cioè mi sono stupito di quante carte fossero disponibili molto forti all'interno del corset che potevano tranquillamente sostituire carte tipo, che ne so, il famoso Daily Cast che molti runner giocano. Io nella versione in cui non potevo giocare Daily Cast ci ho messo i Bank Job, che chiaramente hanno il limite del fatto che insomma, ti chiedono due click per essere portati a casa, però ti danno subito un burst di più 7. Possono essere giocati come una buona minaccia per non mettere dei remoti scoperti. Quindi te lo metto lì, sai che se metti un remoto scoperto io faccio più 7 soldi. E quindi, insomma, sono stati una buona sostituzione. La considerazione iniziale è partita dal cerchiamo di mandare un messaggio dicendo a tutti quanti: ragazzi, si può far bene anche senza dover spendere 1 miliardo in espansioni, e soprattutto si può far bene anche se avete cominciato da poco e non siete ancora sicuri se questo è il gioco che fa per voi. Ci sono riuscito o non ci sono riuscito? Secondo me, non è tanto, diciamo, il risultato, piuttosto è averci provato, nel senso che se ne sia Sì. parlato, ecco, tutto qua. E sicuramente sono stato molto molto limitato nel deck building. Chiaro che non potevo fare un fast advance, chiaro che non potevo fare un big ice, perché comunque non avevo gli strumenti a disposizione. L'unica cosa lato corpo che potevo fare, che avrebbe potuto funzionare, era chiaramente uno scorched, quindi un tag and bag un pochettino limitato dal fatto che c'era solamente il corset, quindi insomma i restructure mi sarebbero tornati Serviti. comodi. Tu avevi Esatto. MBN, mi pare, come corp. No, no, no, No? Wayland? ho portato Wayland Ah. perché non potevo fare diversamente. E Wayland, sì, Wayland MBN con gli hostile takeover, gli Archer, classico mazzo, non me ne frega di fare le agende, basta che ti spacco tutto a tavola e ti spacco poi la faccia quando riesco a buttare dentro gli Scorched. Giocavo i Posted Bounty, per darti Sì, un'idea, ho insomma, capito. di come era strutturato il mazzo, e non ti nego Aspettando. che sono tornati utili, perché comunque Posted Bounty ti consente di fare il triplo Scorched Sì. in un unico turno, Non quindi lo riscuoti il turno precedente, sì, quindi. esatto, e quindi insomma non è un'agenda da sottovalutare. È chiaro che quando metti i Posted Bounty, quando metti gli Hostile Takeover, poi c'hai un'agenda floating notevole nel mazzo, e quindi poi si limitano anche le opzioni all'interno del deck. Ma al di là di questi aspetti un po' tecnici, l'idea era quella di confrontarsi proprio con un una sfida in più, lanciando un piccolo messaggio, niente di che. Secondo me un ottimo nuovo messaggio, sempre sulla stessa linea, che però non è, come dire, da, non è da, da singolo eroe, ma è più da, da team di eroi, e è quello di dire: ok, portiamo, facciamo un torneo, oppure portiamo in 5-6 tutti quanti lo stesso runner e la stessa corp, e in modo da evidenziare che non è sempre il mazzo, ma è sempre il pilota. E poi è chiaro, anche io sono d'accordo che non è, o non è solo il pilota, perché è chiaro che se mi dai un mazzo scarso contro un mazzo forte che si gioca in autorun, probabilmente anche quel, il mazzo che si gioca in autorun vincerà contro il mazzo scarso. Uh-huh. Il mio parere è che in questa forbice fra merito del mazzo e merito del pilota, siamo, in questo caso siamo molto sbilanciati verso il pilota. Beh, diciamo che tu ci sei riuscito a convincere, perché insomma ne parliamo ancora oggi, ne parliamo molto anche per ribadirlo, per ripeterlo, per farlo capire, sì, ai, sì, nuovi, che non è soltanto una sorta di gioco di combo, anzi non è proprio un gioco di combo, e quindi conta l'abilità, conta iniziare a prenderci la mano. Forse ci sei riuscito troppo, perché hai convinto me a portare indirettamente dei mazzi simpatici al nazionale, e al nazionale ovviamente sono arrivato ultimo con questi mazzi simpatici a Spilamberto. Mi sono divertito un sacco con il mio Noise e il mio, mi pare, Wayland con ghiacci avanzabili. Giocavo Tyrant, quindi fai tu i tuoi conti. Però arrivavo alle 4-5 agende e mi fermavo lì, quindi c'era qualcosa che non andava nel mazzo proprio, o nel giocatore. Vabbè, ma, scusate, però insomma il pilota è anche colui che poi che fa il test del, sì, mazzo, sì, e lo aggiusta. Esatto. Insomma è anche quello che fa i giri di prova per vedere come gira la macchina, per come è stata assettata, quindi insomma... Diciamo che è stato un pilota che ha fatto un paio di incidenti gravi. Di percorso. No, ma per ora il mio obiettivo è quello, portare mazzi un po' più diversi, un po' più simpatici. Tu e Costa mi ispirate in questo. No, non voglio divagare troppo, mi ero preparato qualche altra domanda, però come ultima cosa mi ha interessato molto il discorso che hai tirato fuori del rapporto tra daily cast, bank job, il rapporto tra le carte, rapporto economico in fatto di click, in fatto di crediti, che è una cosa che a me ha sempre affascinato tanto. A volte, perché sono un nerd, mi metto lì a pensare, ma un code busting quanto mi costa in click, quanto mi dà in crediti, quanto vantaggio mi dà rispetto a un Katie Jones e così via. E è un discorso interessante. Per esempio, vorrei farti riflettere su questo. Un Armitage code busting, no? Ha 12 crediti sopra, giusto? Mm-hmm. Mi pare. Sì. Quindi con 6 click più l'installazione 7, te li porti a casa. Sì. Quindi 7 click, tu prendi 11 crediti, perché ti costa un credito piazzarlo. Quindi, in teoria, letto in questo modo, un Armitage ha poco vantaggio rispetto a usare i 7 click per prendersi 7 crediti. Ha un vantaggio di soli 4 crediti. Sì. Invece altre carte, come il Bank Job, con un solo click, in teoria, con due click, quello dell'installazione e quello della run, te ne possono dare già subito 7. Ecco, non ho una domanda specifica da farti su questo, era più che altro una riflessione. Carte come Katie Jones, come Code Busting, come possono combinarsi? Qual è la scelta da fare tra l'una e l'altra? Semplicemente un discorso, come ho detto io, di calcolo matematico, o c'è anche qualcosa di più dietro? No, secondo me invece il calcolo matematico porta svia molto, cioè porta molto fuori, esatto, strada. Perfetto. Nel senso che il vero calcolo che va fatto è un calcolo temporale, nel senso di quando ce li ho questi soldi e in che con che flusso mi arrivano. Allora, perfetto, innanzitutto a testimonianza del fatto che la card evaluation è molto difficile da fare se non con il playtest, vi ricordo che io e il Baralai abbiamo dato a Daily Cast un voto molto basso, perché facevamo un mero conto di quello che ottieni e quello che che perdi subito. Avevamo detto, cacchio, perdi subito 3 soldi per ottenere 5 soldi nell'arco di 4 turni. Sì. E quindi, ragionata così, io anche adesso, cioè io anche oggi ti direi, Delicast non funziona, o comunque non è una gran carta. Non abbiamo, non, per questo perché non mettevamo a fattore l'aspetto della tempistica, cioè ci sono delle carte che mi danno il burst economico subito, quindi in teoria quelle carte lì dovrebbero essere le carte migliori da poter utilizzare, cioè se Bank Job dicesse spendi 2 click e ottieni 7 soldi, paga 1 e ottieni 8, sarebbe una carta definitiva, nel senso non ci sarebbe masso in cui non verrebbe giocata. Come gli hedge fund già adesso. Esatto, cioè, come gli hedge fund, esatto. Come molti vediamo i lucky find, sì. Solamente perché costano 2 di influenza, vengono giocati solo in alcuni mazzi. Non ha, ecco, lucky find esattamente dice questo, spendi 3 e ottieni 9, se non mi ricordo male. 9, sì. Quindi c'hai un net gain di 6. Allora, parlando di economia, possiamo tranquillamente anche includere le identità, cioè Kate e Gabriel, che danno dei soldi, vabbè, anche Temma, però insomma, Temma è un'ottima identità, però insomma, ancora non ci ho giocato abbastanza per poterla commentare. Non siamo ancora riusciti a farla esprimere, quindi vediamo, teniamoci no, Kate. Ma guarda, più che altro non ci ho giocato abbastanza con lui, perché se no probabilmente la commenterei insieme a Gabe, che secondo me sono molto simili come personaggi. Comunque, detto questo, il motivo per cui Gabe, per cui anche l'identità core di HB sono molto forti, è perché riescono a darti dei soldi nel momento in cui i soldi hanno un valore notevole, cioè all'inizio della partita, dove che per entrare in HQ è più semplice perché comunque ho degli strumenti tipo Inside Job, tipo Sneak Door Beta, tipo anche solamente entro e non ti puoi permettere di pagare i soldi per l'ice per bloccarmi, oppure il tuo ice è poroso e riesco a entrare lo stesso, tipo un Eli. O forse d'activation order per spiare, certo. Un po', sì, insomma. E quindi all'inizio il valore dei soldi è elevatissimo in termini di quello che ti fa fare in gioco, cioè all'inizio diciamo che un soldo non vale tanto quanto un soldo a metà della partita, né tanto meno quanto vale alla fine della partita. Quindi quello che stiamo facendo, cioè le valutazioni che vanno fatte sono tutte legate alla partenza, alla mano di partenza. Se io gioco un hedge fund all'inizio e faccio una differenza o uno sure gamble, la stessa cosa, e faccio una differenza di 4 crediti, quei 4 crediti sono molto molto molto più importanti degli eventuali 5 crediti che ottengo alla fine del quarto turno, all'inizio del quinto turno con un daily cast. Un daily cast. Perché mi privo dei 3 soldi iniziali che sono fondamentali, perché comunque ho la possibilità all'inizio di entrare dentro la corp in maniera un po' più consistente, proprio perché la corp si sta organizzando per chiudersi a riccio, e quindi lo stesso discorso, il confronto fra Kate e Gabriel, che sono due identità diciamo economiche, è che mentre con Gabriel prendo dei soldi spiccioli, quindi liquidi, all'inizio, soprattutto all'inizio della partita, con Kate è chiaro che magari nel lungo periodo riuscirò comunque a fare più soldi magari di Gabriel, che ne farà, che ne so, 5, ne farà 6, 8 al massimo tutte le volte per gli accessi che fa su HQ. E invece io magari con Kate, soprattutto magari Kate, quelli che fanno la recursion dei Parasite, quelle cose lì, ti installi un data sucker gratis, il tuo clone chip gratis, diciamo che se riesci a ottimizzare tutti i turni, oppure comunque gli 8 decimi dei turni, riesci comunque a installare qualcosa risparmiando, fai parecchi soldi. Il problema è che li fai solo quando paghi qualcosa, o comunque, esatto, quando solo quando, solo nell'arco di tanto tempo. Quindi quel soldino che risparmi al decimo turno vale il giusto, ok? E quindi ecco, la considerazione da fare in generale, legata alle carte economia, è: quando me li darà sti soldi? Per questo che Katie sì, è sgrava, ma non è così così performante, performante. No, scusa, volevo dire Katie Jones. Katie Jones sì, è forte, però non è così, non è così forte. Anche la giochi di primo turno, vuol dire che stai sotto con i soldi per almeno 2-3 turni. Chiaro, c'è il vantaggio del fatto che la puoi svuotare, diciamo, all'occorrenza, quindi è una forma di minaccia, cioè è una forma di dire: ok, sì, è vero che io adesso sono povero, ma appena provi a far qualcosa io me la svuoto e ti posso rannare dove cacchio mi pare. Però in generale tendo a pensare che tutto quello che è economia burst, soprattutto all'inizio, è un'economia che non è sostituibile, altrimenti avremmo già visto, magari, che ne so, il declino di Sure Gamble, sì, o il fatto che non si usino più gli Easy Mark piuttosto che i Dirty Laundry. Dirty Laundry si gioca non perché fai la run all'interno del prendo i soldi, perché la maggior parte delle volte sta benedetta run la fai sugli archivi, perché vuoi soldi subito. Tre soldi non sono mica da buttare via. No, esatto, nel senso che se ritardi il Dirty Laundry perché dici voglio ottimizzare anche la run, e quindi magari voglio essere sicuro di fare una run su R&D, fatta questa run su R&D alla fine prendo i soldi, magari hai perso dei soldi. È come se fosse una sorta di mercato del cambio. Tutte le volte che cioè all'inizio della partita i crediti di Netrunner stanno a tanto, e poi mano a mano i crediti di Netrunner scendono nel loro valore, e quindi al cambio con i click, al cambio con le carte, al cambio con altre azioni che potresti fare, diventano meno di valore. Non so se mi sono spiegato. Sì, sì, il discorso di economia, i discorsi di economia su Netrunner per me sono interessantissimi, quindi faccio un appello: se qualcuno ne vorrà parlare qua ad Hostage, io ne sarò veramente felice, perché anche su Katie Jones poi ci sarebbe da fare un discorso che adesso non andiamo ad aprire, ma su quando e quanto sia utile svuotarla, quando bisogna tirare via quei soldi, insomma, perché più è caricata e più il click è ottimizzato, no? Era uscito anche un interessante articolo in inglese, non mi ricordo dove, sul rapporto tra Katie Jones e appunto il code busting, ovvero quando è che Katie Jones supera il code busting. Però, come hai detto tu, l'economia, per quanto sia interessante, non è il primo punto che uno utilizza per valutare una carta. Esatto, cioè non va, cioè va tutta contestualizzata nel tempo. È per questo che Katie Jones, secondo me, dal punto di vista del design è perfetta, perché ti dice: guarda, sacrifica il tuo tempo iniziale a favore di tanto denaro alla fine. Il denaro che avrai alla fine varrà di meno in termini relativi rispetto al denaro che avresti avuto, diciamo, all'inizio, perché avere tanto denaro all'inizio è fondamentale, però in questa maniera insomma è un trade-off, quello che si chiama proprio un trade-off, tra denaro subito e denaro dopo. Se adesso ti impegni e ti sbatti, poi dopo, e magari quindi rinunci ad avere del denaro subito, poi dopo ce ne avrai tanto dopo. È il discorso che ti farebbe un banchiere dicendo: guarda, metti i soldi in banca che poi ti do gli interessi. Lo stesso vale, come detto prima, per dei leakest, perché è vero che sì, ti dà 5 senza spendere click, che per me sì, è la sua particolarità migliore, perché poi per quello che viene usata, sì, però sì, è un meno 3 di partenza che diventa un meno 1 in 2 turni, perché il primo turno sì, lo devi installare e non ti dà niente. Sì, discorso... se guardi solamente l'economia, Delicast ti dà in realtà solo 5 soldi, però te li dà senza click, e quindi cosa succede? Che fondamentalmente, siccome un click oggi, secondo me, vale più di un soldo, vale almeno 2 soldi, fondamentalmente non ti sta dando 5 soldi, ma te ne sta dando tanti di più, cioè ti sta sempre dando 5 soldi laddove altri che ti chiedono click non ti danno così tanti soldi quanto credi. Cioè nel momento in cui tu spendi dei click, per esempio in Armitage Gold Busting, secondo me stai semplicemente trasformando il valore effettivo del click in soldi, ma in termini di net non c'è nulla. Idem per Katy Jones, spendi quel click per mettere quei 3 soldi, stai avendo un net di 1, ma non, sì. Non e tutte le volte che spendi click e fai soldo stai perdendo un soldo, a mio parere. Nel senso che se il click lo valuto 2 soldi funziona così. Sì, perché aumenti il rapporto tra soldo e click ogni volta che lo aggiungi su Katy Jones, perché più ne metti e più varranno quando li tiri via, ma al tempo stesso varranno meno perché il tempo è passato, non li hai presi, sì, quando esatto, magari ti servivano, e quei click per metterci sopra 3 soldi ti valevano comunque almeno un soldo da prendere sul momento che non hai avuto. Sì, sì, esatto, nel senso che se per esempio io, che ne so, nell'arco di 4 turni riesco a metterci 12 soldi sopra, ok, al quinto turno avrò 12 soldi, ma nell'arco di questi 4 o 5 turni probabilmente la corp sarà talmente più dispendiosa da superare che quei 12 soldi, beh sì, probabilmente varranno tanto quanto 3 soldi a 5 turni prima. Quindi insomma è molto ben bilanciato, Netrunner ci piace anche per questo motivo qui, perché non può essere rotto da cose come queste. Mi preoccupa un pochettino in generale l'economia bassa della corp, perché comunque è neutrale, e molta di questa è neutrale, e anche gli Sweeps Week comunque costano poco di costo di influenza, sì, esatto, e comunque sì, tutte le corp adesso hanno la possibilità di fare dei soldi senza nessun problema, anche Gintechi, che al tempo sì, era quella più povera. Quindi secondo me in questo momento il runner sta perdendo la partita in generale adesso, sul fronte economico. Con la giraffa Gintechi riesce a cavarsela, ma anche fundraising è fortissima, perché comunque Gintechi facendoti click compression e non money compression non gliene frega niente di darti 3 soldi, l'importante è che lui prenda 5 soldi, e quindi tu puoi diventare ricco quanto ti pare, ma tanto c'hai sempre 4 click durante il turno, e se io riesco a metterti in una situazione in cui se non peschi e runni senza aver pescato muori, va da sé che tu dovrai spendere il tuo turno a cliccare, e quindi è come se spendessi il tuo turno a fare click soldo, click soldo, click soldo, e quei invece fai click pesco, non ti click pesco, click pesco. No, esatto, cioè fare click pesco, click pesco, click pesco non è a completamente, cioè stai giocando su un, in un certo senso, su un piano differente, quindi io ti posso dare tutti i soldi quei tre soldi lì te li posso dare senza nessun problema, l'importante è che io ne prenda 5 a costo 3, insomma, cioè, scusa, 5 con 3 di soglia non è affatto male. Infatti anche per quella carta lì non c'è da fare un discorso economico del tipo beh vabbè, allora è come se guadagnassi semplicemente 2 facendo no, il 3 meno l'8 meno 3, e invece no, è un discorso fantastico. Io rinnovo l'appello per chi ne vorrà parlare ancora qui con me, e verrà accolto, anzi verrà catturato come ostaggio. Esatto. E, va bene. C'erano qualche altra domanda, ma non erano così interessanti. Questo discorso è stato buono, quindi posso anche liberarti, posso lasciarti andare. Okay. Ripeto ancora, se qualcuno vuole far due chiacchiere, vuole essere preso qui in ostaggio e raccontare un po' la propria esperienza, raccontarsi agli altri giocatori di Netrunner, io sono disponibile. Non per la seconda puntata, che ho già addocchiato un birraio bolognese come hostage, ma per la terza, la quarta, la quinta, volentieri, altrimenti sarò io a venirvi a bussare. Allora, per hostage è tutto, un saluto da Dennis. E da Federico. Ciao. Ciao. I've... seen things you people wouldn't believe. Maintenance mode turned on. Jack out.